Odissea 2011. In viaggio verso il futuro. Di Maurizio Melis. C'è chi pensa che il primo vero romanzo di fantascienza sia stato Frankenstein di Mary Shelley, 1815. C'è chi invece torna molto più indietro, fino a Luciano di Samosata, che nel secondo secolo dopo Cristo ha scritto il primo racconto di cui si abbia notizia, di un viaggio sulla luna, dell'incontro con i seleniti. Ma a questo punto perché non scomodare l'Odissea? In fondo la storia è sempre quella, gli interrogativi anche. La storia è quella dell'uomo che si confronta con un potere sovrumano e l'interrogativo è sull'uso che saprà farne di questo potere. A questo punto che cosa cambia, mi domando, tra la spada di Re Artù e quella laser di Duke Skywalker? A proposito, non negatelo, avrete accarezzato anche voi almeno per un secondo nella vostra vita il sogno di tagliare tutto a fette con una spada laser. E d'altronde i casi in cui la fantascienza ha anticipato la realtà non sono rari, come pure spesso si è spinta in territori che sono semplicemente irraggiungibili. Ed è proprio qui, su questo confine, che cercheremo di camminare nel corso delle prossime puntate, 12 in tutto, per esplorare il futuro tra possibile e impossibile. Alla base spaziale si stanno ultimando i preparativi per il lancio di venerdì verso l'astronave orbitante Antares e da lì fino a Venere e oltre. Oggi gli astronauti si sono sottoposti agli ultimi controlli medici, hanno poi posato per la foto ufficiale nella sala del controllo missione. I membri dell'equipaggio dedicheranno i prossimi... Tu quale sei? ...congedo dalla Terra, dagli amici e dalle persone... Io non ci sono, papà. L'umore è eccellente, ma è chiaro che c'è un po' di preoccupazione per la lunghezza e l'intensità di questa storica missione che... Papà, non partecipo alla missione. La preparazione è stata oltremodo... Ok, non ce l'ho fatta stavolta. ...di vista fisico che scientifico. I membri... Lo so questo. ...si sono sottoposti a un duro addestramento... Lo so questo. ...in modo da arrivare al giorno della partenza in perfette condizioni... 8 astronauti, 4 uomini e 4 donne, un viaggio di 6 anni attraverso tutto il sistema solare. Defying Gravity, una serie del 2009, interrotta tra l'altro dopo la prima stagione, nonostante fosse, almeno a mio avviso, di buona qualità, che ci farà un po' da filo conduttore di questa prima puntata di Odissea 2011, dato che ci chiederemo proprio questo: è possibile per l'essere umano esplorare il sistema solare? Che cosa serve per farlo? In questo la serie Defying Gravity è molto curata e molto realistica, ma c'è una domanda che dobbiamo farci ancora prima, cioè dove vogliamo andare? Nessuno meglio di Andrea Bernagozzi può rispondere a questa domanda. Andrea Bernagozzi è ricercatore dell'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed è anche divulgatore scientifico, autore di un libro tra l'altro molto divertente, Seconda Stella a Destra, Guida Turistica al Sistema Solare. Ciao Andrea! Ciao Maurizio, grazie per avermi invitato come primo compagno di viaggio in questa Odissea. Grazie, grazie a te per essere venuto. Dici subito 3 destinazioni del Sistema Solare. Beh, nel Sistema Solare non si può andare da nessuna parte se prima non siamo andati a vedere Marte, il pianeta rosso, che è ovviamente affascinante per definizione. Poi a questo punto direi abbiamo 2 possibilità: andiamo più vicino al Sole, andiamo magari a vedere il pianeta Mercurio, e poi andiamo a vedere invece i confini del Sistema Solare, i pianeti giganti esterni, per esempio Saturno e i suoi bellissimi anelli. E tra l'altro tu, Andrea, e Davide Cenadelli, coautore, che ha scritto insieme a te questo libro, date anche dei suggerimenti un po' strani, perché questo libro è a metà tra divulgazione scientifica e commedia, diciamo, perché consigliate dei pasti, per esempio. Su Marte qual è la specialità? Beh, Marte è il pianeta rosso, tutti sanno che ha questo colore caratteristico, e quindi per esempio un bel panino vegetariano, l'insalata verde sul pianeta rosso c'è contrasta, fa un bel contrasto. Contrasto cromatico e alimentare molto buono. Quindi vogliamo andare su Marte, ma la tecnologia che ci ha portato sulla Luna a quanto pare non è sufficiente. Abbiamo chiesto che cosa cambia a Giovanni Bignami, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, divulgatore scientifico, accademico dei Lincei. Ascoltiamo. La prima fondamentale differenza è nella propulsione. Noi siamo andati sulla Luna con una specie di mega V2 di von Braun, il Saturno 5 splendido, il massimo che la chimica poteva darci. Per andare su Marte abbiamo bisogno di spingere una nave grande come un Airbus a 50 km al secondo per alcuni mesi, se non un anno. E per questo ci vuole la propulsione nucleare, la chimica non ce la potrà mai dare. È difficile da spiegare in 2 parole, ma certamente sfruttando l'energia nucleare della fissione con letteralmente un bicchiere, pochi chili, diciamo, di materiale fissile, si può costruire una nave che abbia una, una spinta, diciamo, di 50 megawatt e che perciò faccia quello che vogliamo. Il problema nella propulsione è sempre quello di scaldare del gas, no? Una volta che uno ha del gas caldo, poi lo fa uscire da un ugello e questo spinge la nave. Allora bisogna scaldare tanto gas e scaldarlo molto, e il deposito di energia dei frammenti di fissione in un gas, per esempio idrogeno, lo può facilmente scaldare a temperature molto alte, fino a 10.000 gradi, e perciò portare a una spinta formidabile con una reazione perfettamente controllata. Sappiamo come farla, il professor Rubbia ed io ci abbiamo lavorato su all'Agenzia Spaziale Italiana e ci eravamo molto vicini. Poi è stato smesso tutto. Beh, senti Andrea, la fantascienza ci ha abituato a una pletora di ipotesi a proposito di propulsione. Beh, per esempio, alternativa alla fissione nucleare di cui stava parlando adesso il professor Bignami, c'è il motore a ioni. E il motore a ioni o a impulsi ionici, motore a impulso, è tipico per esempio della serie di Star Trek. Ebbene, prima delle astronavi del XXIII e del XXIV secolo hanno già volato nello spazio delle sonde spaziali senza astronauti a bordo che sfruttavano il motore a ioni. Cosa c'è dietro? Beh, come diceva prima il professor Bignami, il problema è scaldare qualcosa e poi buttarlo fuori per avere la spinta in avanti, e questa è la reazione del motore a reazione. Allora, o scaldi tanto gas caldo così che esca fuori in maniera esplosiva e ti dia subito una grandissima spinta, però questa spinta, per quanto grande, dura poco, oppure lentamente, come la formichina, riscaldi per esempio un filamento che emette lentamente degli ioni, che sono proprio particelle microscopiche, non le vediamo. Questi ioni vengono buttati fuori da questo filamento e danno una piccolissima spinta in avanti, però butta fuori uno ione oggi, butta fuori un ione domani, questa spinta è talmente continua che, continuando a accelerare, puoi raggiungere delle velocità che effettivamente hanno portato queste sonde spaziali, una sonda statunitense e una sonda europea, a raggiungere le loro mete. Per esempio la sonda europea Smart 1 è arrivata sulla Luna con un motore a ioni. Ecco, tra l'altro questo motore a ioni dobbiamo immaginarlo come una cosa complicatissima, perché è qualcosa di simile al tubo catodico dei vecchi televisori, è proprio un filamento che spara fuori delle particelle. Ecco, ma tra le soluzioni proposte ce n'è una incredibilmente affascinante. Ascoltiamo. Perché preoccuparsi della vela quando le astronavi nucleari sono più veloci, più affidabili, più sicure e facili da condurre? La risposta è in tre punti. Per cominciare, una vela non è tanto male per muovere attraverso lo spazio un carico pesante, lentamente ma a basso costo. Secondo, l'autonomia della vela è illimitata, dato che per la spinta impiega la pressione meccanica della luce e quindi non occorre trasportare né meccanismi propulsori, né materiali da eiettare, né fonti di energia. La vela solare è molto più leggera della sua controparte a energia nucleare e in una capsula più grande può portare un equipaggio umano maggiore. Infine, per addestrare uno spaziale non c'è niente di meglio che manovrare una vela. Avete sentito uno stralcio tratto da Vela 25, 1962, autore Jack Vance. Ma dimmi Andrea, come si fa su queste astronavi per manovrare? Gli ordini quali sono? Cazza la randa, lasca al fiocco, qualcosa del genere? E probabilmente sì, io lavoro all'osservatorio astronomico in Valle d'Aosta, in cima a una montagna, quindi non sono molto qualificato a parlare di navigazione in mare. Però effettivamente questa cosa ci riporta proprio alle origini della navigazione, e non a caso siamo in un programma che parla dell'Odissea. Era proprio una nave dove c'era il cazzo alla randa e tutte queste cose grazie alle quali Ulisse e i suoi compagni attraversavano il Mediterraneo. Ecco, prova a spiegarci però che cos'è che spinge la vela. Sulla Terra è il vento. Che tipo di vento troviamo nello spazio? Nello spazio troviamo il vento che giunge dal Sole, un vento che è fatto sia di particelle microscopiche emesse in continuazione dalla nostra stella, ma anche di energia. La stessa luce che arriva qui sulla Terra spinge anche gli oggetti, e quindi una grandissima vela colpita dall'energia che sgorga dal Sole riceve una spinta molto piccola, ma se la vela è molto grande può col tempo acquisire una velocità sufficiente a portarci da un mondo all'altro nel sistema solare. Odissea 2011, in viaggio verso il futuro. Bene, abbiamo appena lasciato Marte, dove abbiamo consumato un'ottima insalata, e ci lanciamo verso Mercurio. Andrea, che piatto ci attende su Mercurio? Beh, su Mercurio, nel libro Seconda Stella a destra, Davide Cenedele e io suggeriamo per esempio un buon piatto di pesce. Proprio su Mercurio? Il pianeta più vicino al Sole, però avrà delle caratteristiche particolari. Ci si può permettere un buon piatto di pesce fresco su Mercurio. E dove bisogna andare per trovarlo? Bisogna andare però ai poli del pianeta Mercurio, dove ci sono crateri talmente profondi che i raggi del Sole non arrivano mai. Benché sia il pianeta più prossimo al Sole, lì la temperatura è quella dello spazio esterno, centinaia di gradi sotto zero, e quindi lì il pesce conservato si conserva in ghiaccio, bene, insomma, e magari per cuocerlo basta esporlo ai raggi del Sole, più facile 30 di così. Secondi per lato ed è cotto. Ma per arrivare da Marte a Mercurio abbiamo bisogno di fare una operazione tipica nella navigazione astronautica e sfruttare l'effetto fionda, quindi ci fiondiamo su Mercurio. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire riuscire ad avere una spinta per la propulsione della propria astronave sfruttando la gravità dei corpi celesti, la stessa gravità che per esempio attrae noi qua sulla Terra. E nello spazio può attrarre una sonda, e se si fanno dei calcoli corretti sulla rotta facendo avvicinare la sonda in questa maniera, ecco che la sonda viene attratta da un pianeta, per esempio Marte, devia dal suo percorso e non solo prende la rotta che noi vogliamo, ma addirittura acquista un po' di velocità a spese proprio della forza gravitazionale del pianeta Marte. È un po' come quando arrivando in bicicletta ci attacchiamo a un tram, ci facciamo trascinare, accelerare, poi molliamo e continuiamo per la nostra strada in un certo senso. Ma avvicinandosi a Mercurio assume la massima importanza un nuovo problema, per la verità ci sarebbe anche per i viaggi su Marte, ce lo siamo un po' scordato prima, se ne parla poco, ma è uno dei più grandi ostacoli ai viaggi interplanetari. Sentite che cosa succede ai protagonisti della nostra serie. Allarme del NOAA, comunicato solare urgente. Sensori di rilevamento protoni attivati. Regione attiva 106 Bravo 6, in avvicinamento al meridiano solare centrale, evento di classe X. Eruzione solare! Tempo stimato di arrivo. 7 minuti. Notevole iniezione di massa coronale con intensa attività protonica, classe X 2.3. Antares, avete 6 minuti e 35 secondi per trovare un rifugio dalle radiazioni. Ricevuto. Chiudo il laboratorio. Dei lander. Andrea, che cos'è un'eruzione solare? Faccio i miei complimenti agli autori di questo telefilm, perché tutto quello che hanno detto è proprio scientificamente corretto. Un'eruzione solare è un'espulsione non di lava, perché il Sole non ha i vulcani come la Terra, però di massa, di particelle microscopiche, per esempio protoni, ma molto cariche energeticamente, che se colpiscono per esempio una cellula umana possono farle gravi danni e provocare l'insorgere delle malattie. Per questo i protagonisti del telefilm nello spazio devono proteggersi. È molto interessante, perché a un certo punto dicono: avete 7 minuti. Perché? Perché la luce viaggia molto più veloce della materia. La materia, la massa di cui sono composte queste particelle elementari, fa sì che ci sia un tempo che permette agli astronauti che hanno visto con dei telescopi l'effettivo fenomeno sul Sole di mettersi in salvo. Ed è proprio questo uno dei campi più importanti che adesso vengono studiati, quello della meteorologia spaziale. Studiare i fenomeni che avvengono sul Sole, che possono produrre espulsioni di materia verso gli astronauti in orbita o anche la stessa Terra, e sfruttare questi minuti dovuti al fatto che le particelle impiegano più tempo della luce per trovare le soluzioni per proteggersi. Ecco, diciamo che sull'Enterprise, la mitica astronave di Star Trek, si risolverebbe tutto con un comando piuttosto semplice sugli scudi e siamo a posto. Sentiamo invece a che tipo di soluzioni si sta pensando oggi. Ce lo facciamo spiegare ancora una volta da Giovanni Bignami, e forse non è poi così diverso. Per proteggersi non ci sono molti metodi sicuri. Uno che stiamo studiando è un campo magnetico intenso, cioè simulare quello che fa la Terra, che però richiede correnti e magneti molto forti che pesano e hanno bisogno di potenza. È difficile il problema. Si parla spesso anche di astronavi di plastica o di strati di acqua intorno all'astronave. È uno scenario realistico? Certamente è uno scenario che un po' aiuta. Però il vero pericolo è quando uno è lontano da Terra, metà strada tra la Terra e Marte, e il Sole fa un ruttino, come si dice, cioè fa una emissione improvvisa di un grandissimo numero di particelle, anche se non di altissima energia, ma una dose molto molto forte. E allora lì la schermatura è difficile che sia sufficiente, mentre il campo magnetico potrebbe essere. Insomma, sembra proprio che ci voglia lo scudo magnetico, Andrea. Sì, e questo è molto importante. Prima noi parlavamo di essere vicini al Sole con Mercurio, invece il professor Bignami parla del viaggio verso Marte, perché in realtà appunto l'intero spazio è pervaso di queste radiazioni e bisogna quindi proteggersi. È interessante pensare che un esperimento che proprio è in questi giorni è stato appena attivato, l'Alpha Magnetic Spectrometer AMS, che è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha come scopo anche studiare la possibilità di replicare un campo magnetico che invece di attrarre le particelle le respinge, così che queste particelle nocive non entrino proprio fisicamente dentro la nave e quindi non ci sia bisogno di andare in un luogo protetto per scappare all'arrivo di questi micidiali particelle. Ecco, tra l'altro questo è un problema che diventa immediatamente significativo non appena le permanenze nello spazio si prolungano oltre qualche giorno, qualche settimana. Non dobbiamo confonderci e pensare alle permanenze degli astronauti in orbita, perché questi sono ancora protetti dal campo magnetico terrestre, che è quello che si cerca in qualche modo di replicare con queste soluzioni. Ecco, ma perché anche plastica e acqua possono essere utili? In questo caso si cerca di replicare invece magari il ruolo dell'atmosfera. Perché plastica e acqua? Perché sono sostanze ricche di idrogeno. E l'idrogeno che cos'è? Beh, è un atomo molto semplice fatto con un nucleo formato da un solo protone. Ebbene, un solo protone, le particelle che possono arrivare dal Sole o dal cosmo, i cosiddetti raggi cosmici, per la maggior parte sono fatti proprio di protoni. Il risultato è quindi che queste radiazioni, queste particelle arrivando a contatto con qualcosa che è simile a loro possono proprio rimanere o respinte o spegnersi, abbassare la loro energia passando attraverso degli schermi per esempio di plastica o proprio delle paratie ricolme d'acqua. Che tra l'altro bisognerebbe portarsi dietro per questi viaggi, tanto varrebbe disporla intorno all'astronave in modo che proteggano l'astronave tutta. Va bene, ma adesso partiamo per la terza destinazione, Andrea. Andiamo a vedere gli anelli di Saturno da vicino. E quindi introduciamo il terzo argomento, e lo introduciamo così. Il mio vecchio sostiene che i viaggi spaziali sono una follia. Dice che gli esseri umani sono per il 60% acqua, mangiano, dormono, defecano, non sanno eseguire gli ordini ed esplodono come palloncini se esposti al vuoto dello spazio. Ultimamente mi chiedo se non abbia ragione. Bene, qui parliamo di andare su Saturno, 1,5 miliardi di chilometri di distanza, un viaggio di mesi, probabilmente di anni, e qui assume una importanza rilevantissima la possibilità di conservare un minimo lo stile di vita terrestre, vero? E soprattutto l'equilibrio psicofisico proprio, certo. E l'equilibrio sociale con i compagni di viaggio. Senti, il primo problema è sicuramente la gravità. Ci siamo evoluti su un pianeta con la gravità, ci sono un sacco di cose che non siamo capaci di fare senza gravità. Come si fa? Beh, allora, una cosa molto interessante è innanzitutto dire che la gravità c'è dappertutto nello spazio. Quello di cui si risente in un viaggio di questa cosa è l'assenza della percezione della gravità, cioè l'assenza di peso. Il nostro corpo sulla Terra è stato plasmato dal peso che sentiamo, ossa, muscoli, e quindi quando uno fa una lunga permanenza nello spazio in assenza di peso deve mantenersi in forma, esattamente quello che fanno gli astronauti in orbita. Tanta nella ginnastica, quindi. Tanta ginnastica, cibo se possibile buono, e la questione fondamentale è mantenersi in forma, perché altrimenti il nostro corpo deperisce. Però c'è modo di creare una gravità, diciamo così, artificiale, una simil gravità? Beh, nella fantascienza è semplice, basta prendere un buco nero portatile che ti crea la gravità locale. Però Odissea 2001 ci insegna che basta anche far ruotare un oggetto abbastanza rapidamente. Se si fa un'astronave a forma di ciambella e si cammina all'interno di questa ciambella, si subisce la forza centrifuga, che è molto simile, indistinguibile di fatto, da quella gravitazionale, no? E infatti è proprio la percezione del proprio peso che ci permette, come permette all'astronauta in 2001 Odissea nello spazio, di addirittura fare footing. Quindi bisogna tenersi in forma, ma bisogna anche non impazzire. Anni interi con poche persone, anzitutto bisogna essere molto equilibrati, ma poi, diciamolo, c'è un problema che tutti fanno finta di non vedere: il sesso per 6 anni, anche perché se c'è un equipaggio composto da uomini e donne, cosa molto realistica, come si fa? Qui, ecco, in Defining Gravity si pigliano una pillola, una sorta di pilloletta blu al contrario. Allora, anche se fosse composto da solo uomini o solo donne, mi sa anche a me, ma non volevo entrare in questi dettagli. Allora, è curiosa la censura quasi da anni 50 che c'è su questo argomento, perché effettivamente se si vuole riproporre l'umanità nello spazio, ebbene il sesso fa parte integrante della cultura dell'umanità di tutti i tempi, di qualsiasi sia il tuo stile di vita. E l'argomento appunto è curiosamente poco considerato. Si vocifera che ci sono già stati degli accoppiamenti nello spazio di astronauti americani, cosmonauti sovietici, ma nulla di documentato. Bene, in chiusura intanto ringrazio Gianni Bignami per aver risposto alle nostre domande e ricordo a tutti che ha appena pubblicato un libro, I marziani siamo noi, un filo rosso dal Big Bang alla vita, edizione Zanichelli. E proprio a lui ho fatto la domanda conclusiva di questa nostra prima puntata. Intanto grazie Andrea Bernagozzi per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci tornerai a trovare. La domanda conclusiva che ho fatto a Bignami è: potendo scegliere, come appunto un turista spaziale, dove vorrebbe andare all'interno del Sistema Solare? Senza dubbio Europa, un satellitone di Giove coperto di ghiaccio d'acqua che mostra le fratture tipiche come c'è il pack artico, perché vuol dire che sotto c'è un oceano liquido. Lei si immagina cosa vorrebbe dire perforare quel ghiaccio e guardare sotto nell'oceano liquido, vedere se ci sono dentro i pesci. Beh, non ho chiesto ad Andrea Bernagozzi che cosa ci farebbe con quei pesci, ma presumo che farebbero la stessa fine di quelli di Mercurio. Appuntamento settimana prossima.